Dalla sala dei concerti del liceo musicale Jacopo Tomadini di Udine vogliamo oggi farvi ascoltare alcuni brani di musiche nuove e inedite di compositori friulani eseguite da artisti friulani, gli uni e gli altri valenti insegnanti del liceo musicale stesso. Eccovi un brano per organo di Albino Perosa eseguito da Mila Modesto. Del giovane maestro Tarcisio Todero vi presentiamo il recitativo della sonata per pianoforte e violoncello. Esecutori al piano l'autore, al violoncello Danilo Portograndi.